Salva Danaio di Deborah Rosciani. Caro Mont Blanc, che sei nell'emiciclo. Guarda che, caro Mont Blanc, che sei nell'emiciclo. Sì. Sia rivotato il tuo nome. Sì, venga il tuo governo. Daggi oggi un'altra aliquota. Sì. Rimetti a noi i nostri IMU come noi li rimettiamo ad Equitalia. E non ci indurre in fatturazione, ma lasciaci un po' di nero. Amen. La preghiera fiscale dell'immensa Luciana Littizzetto. Domenica sera con Fabio Fazio abbiamo voluto trarre questo spunto dalla Littizzetto per iniziare il nostro salvadanaio di oggi, che invece affronta un tema ancora per l'ennesima volta, lo definisco tale, molto indigesto per molti dei nostri ascoltatori, però tant'è, lo dobbiamo affrontare questo appuntamento, quello del 17 dicembre, giornata in cui scade il termine per pagare il saldo dell'IMU, l'imposta municipale unica introdotta dal decreto Salva Italia, anzi reintrodotta perché ha preso il posto della vecchia ICI, ed è stata una misura questa tanto discussa negli ultimi mesi, come sapete, perché è diventata addirittura quasi il simbolo dei sacrifici che questo governo tecnico, con le scelte dettate dalla crisi economica, ha chiesto ai cittadini italiani. Allora, pochi giorni dalla fatidica data, sono ancora però molti i dubbi e le domande da parte dei contribuenti, anche dei professionisti. Per non sbagliare nel versamento di questo saldo è importante intanto individuare l'aliquota corretta, verificando le decisioni del proprio comune di residenza. Ciascun comune infatti poteva modificare l'aliquota base fissata dal governo centrale, che è praticamente stata la base con la quale abbiamo fatto il calcolo del versamento dell'acconto di giugno, aggiungendone una porzione in base alle necessità del suo bilancio. È per questo che sarà importante anche dividere correttamente l'importo dovuto allo Stato e quello da versare all'amministrazione locale. Poi bisogna compilare in modo corretto il modello F24 e così via, insomma, siccome non è proprio semplice né fare il calcolo né fare la compilazione dell'F24 se non ci aiuta un professionista, noi oggi abbiamo ritenuto opportuno riprendere questo argomento e probabilmente ne rifaremo altre di puntate prima del 17 dicembre, cercando di sciogliere un po' i dubbi di tutti e di affrontare anche i casi particolari che sicuramente volete sottoporci e sui quali con i nostri esperti questa mattina cercheremo di aiutarvi. Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore questa mattina curiosamente collegato con noi telefonicamente. Cristiano, buongiorno, benvenuto, bentornato anzi. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E poi per quello che riguarda invece il punto di vista professionale abbiamo il notaio Enrico Maria Sironi del Consiglio Notarile di Milano. Buongiorno notaio, benvenuto a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, ascoltatori che come sempre le conoscono a menadito le modalità per intervenire in diretta, per interagire con noi, però noi facciamo lo stesso un ventaglio di tutte le opzioni che hanno a disposizione. Numero verde per intervenire in diretta 800 24 00 24, numero per gli sms 349 238 6666, l'indirizzo di posta della nostra trasmissione salvadanaio@radio24.it, salvadanaio è su Facebook all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24, per Twitter siamo invece su @salvadanaio24. E allora raccontateci quali sono le vostre perplessità sulle modalità di calcolo e di pagamento dell'IMU, del saldo dell'IMU, scadenza il 17 dicembre. Siamo qui per raccogliere naturalmente tutte le vostre osservazioni. Molto rapidamente, la borsa che questa mattina è positiva, adesso un po' meno rispetto all'apertura che era stata più brillante grazie all'accordo raggiunto in extremis in nottata sulla Grecia. L'Eurogruppo ha deciso in che modalità e a che condizioni verserà la nuova tranche di aiuti da 44 miliardi di euro. E dopo sono state diffuse però anche le nuove stime sulla crescita mondiale dell'OCSE e sono in arrivo cattive notizie per quello che riguarda sia l'Eurozona, vista ancora in recessione per il 2013, sia per quello che riguarda l'Italia, vista in recessione meno 1% di PIL l'anno prossimo, e quindi la borsa risponde di conseguenza rallentando un bel po' il passo. Più 0,12% su Parigi, più 0,28% per la borsa di Francoforte, più 0,30% per Londra, più 0,06% per quello che riguarda riguarda invece il Fuzzi MIB a Piazza Affari. I migliori titoli sono Mediaset più 2,71%, Campari più 1,32%, Buzzi Unicem più 1,29%. Vediamo un po' il segno meno dov'è. Su Telecom meno 2,30%, STM meno 2%, Azimut meno 1,64%. Direi di lasciare subito la borsa, perché il tema che affrontiamo stamattina sta a cuore di tutti gli ascoltatori, per cui direi di cominciare immediatamente con le notizie da dare che dobbiamo assolutamente sapere per effettuare correttamente il versamento del saldo IMU. Cristiano Dell'Oste, comincio subito con te, intanto ricordando magari, non ne abbiamo uno in concomitanza con la puntata di oggi, ma Il Sole ha pubblicato molti speciali, molti approfondimenti. L'ultimo è stato, l'ultima guida, quella di lunedì 19 novembre. Poi c'è in distribuzione anche una guida normativa un po' più complessa sul saldo IMU, per cui va chiesta all'edicolante. Costa 9,90 più il prezzo del quotidiano, così siamo corretti appunto in tutte le informazioni da dare. Però c'è ancora il sito internet, no? Saldo IMU da poter consultare, Cristiano, per avere tutte le informazioni su questa scadenza. Sì, esatto, è così, abbiamo la possibilità di collegarci al sito del Sole 24 Ore, tutti gli ascoltatori possono collegarsi, l'indirizzo, ricordavi tu, è sole24ore.com/saldo-imu, da qui si può accedere sia al dossier online, che comunque è molto ricco e contiene tutta una serie di informazioni su come calcolare l'imposta e sulle aliquote comunali e così via, ma anche andare a vedere le risposte al forum online che abbiamo tenuto la scorsa settimana e in cui gli esperti hanno appunto risposto a molte delle domande che ci sono state mandate. Cristiano, noi tra l'altro abbiamo rubato anche un lavoro che tu hai fatto per il Sole 24 Ore. È presente le risposte ai 5 dubbi più comuni a cui hai risposto sul quotidiano? Anche noi li abbiamo prese appunto questi dubbi, e poi faremo ascoltare appunto le risposte, perché abbiamo registrato anche delle pilloline da mettere a disposizione dei nostri ascoltatori. Però se dovessi tu fare intanto una sintesi, quali sono ancora i nodi irrisolti rispetto al versamento del saldo? Intanto tutti i comuni hanno deliberato l'aliquota definitiva? C'era tempo, sì, fino al 31 ottobre. Certo, questo non è un problema, o meglio, tutti i comuni hanno deciso, e se anche qualche comune non avesse deciso, la legge è molto chiara, si applicano le aliquote nazionali, quindi 0,76% come aliquota ordinaria, 0,4% sull'abitazione principale, quindi fin qui non c'è problema. Il problema semmai potrebbe porsi per andare a capire qual è effettivamente l'ultima delibera del comune, perché in molti casi noi abbiamo visto comuni che hanno deliberato a maggio, a giugno magari, e che poi a settembre o addirittura fino agli ultimi giorni di ottobre hanno corretto la deliberazione iniziale perché sono intervenute delle modifiche da parte del gettito che lo Stato assegnava, e quindi i comuni hanno dovuto rifare i conti in buona sostanza. Quindi potrebbe essere un po' complesso andare a capire effettivamente qual è l'ultima delibera. La fonte principale è ovviamente il comune stesso, che è la cosa più pratica. Si può consultare innanzitutto il sito internet di ogni comune oppure fare una verifica presso l'ufficio tributi. Poi c'è anche il sito www.finanze.it, che è il sito del Dipartimento delle Finanze, su cui le delibere vengono pubblicate, ma in questo caso a volte possono passare anche diverse settimane, anche perché i tempi di pubblicazione comunque sono piuttosto lunghi, quindi certo, visto che la scadenza si avvicina, se c'è una delibera comunale magari molto vecchia, ecco, conviene fare una verifica col comune stesso per capire se non sia stata aggiornata. Ecco, guarda, in questo modo abbiamo risposto anche ad un ascoltatore, Enzo, che ci ha scritto a salvadanaio@radio24.it, perché lui suggeriva l'Agenzia delle Entrate dovrebbe mettere online dei programmi, dei software che ci aiutino a fare il calcolo inserendo le variabili necessarie. È assurdo che oltre a dover pagare le tasse dobbiamo ogni volta anche pagare dei professionisti per fare i calcoli. Tutto sommato, ecco, forse in questo caso diciamo avevamo qualche chance, qualche aiuto in questo senso. C'erano molti simulatori, no? Qui possiamo dare una buona notizia, nel senso che da pochi giorni è online anche un calcolatore sul sito del Sole 24 Ore che abbiamo sviluppato in tandem con l'Anutel, che è la società che cura i servizi informatici per l'Associazione dei Comuni, quindi è, come dire, un referente più che autorevole. Se l'indirizzo lo possiamo anche dire, certo, è sole24ore.com/calcolo IMU, scritto tutto benissimo, attaccato. Lo mettiamo anche su Facebook e poi così gli ascoltatori possono andare direttamente a collegarsi, e quindi questo appunto è il messaggio per l'ascoltatore. Io tra l'altro questa mattina, così per curiosità, per mettere anche alla prova il mio comune, ho tentato di fare una compilazione sul sito dell'amministrazione appunto comunale di Milano. Ovviamente non avevo con me la rendita catastale, per cui mi sono dovuta bloccare. Questo per dire che in ogni caso, quantomeno i comuni più grandi, il software di calcolo lo mettono a disposizione, Cristiano, sul sito. Forse questo è un po' più complesso per i comuni di più modeste dimensioni. Esatto, proprio così, proprio così. Sui comuni più grandi addirittura ci sono anche degli sportelli dedicati per i cittadini, con personale che si occupa sostanzialmente dalla mattina alla sera di rispondere alle domande sull'IMU. Il problema è, se andiamo, visto che i comuni italiani sono più di 8.000, se andiamo nel comune di 500 abitanti, allora lì magari diventa un po' più complesso avere qualche un simulatore, un calcolatore, esatto. Però magari un po' più facile andare all'ufficio tributi di quel comune, magari si deve perdere un po' meno tempo, forse ci sono meno file. Notaio Sironi, adesso voglio sentire invece quali sono ancora le perplessità permanenti dei professionisti su questa scadenza, o quantomeno quelle che più frequentemente le rivolgono i suoi clienti in questa fase. Guardi, in realtà il notaio non è esattamente il professionista che assiste nel calcolo dell'IMU. Però diciamo che avendo magari assistito quel cliente, certo, per il rogito, magari viene, certo, da lei, perché la considera un po' il depositario, tutti i segreti della casa. Certamente, infatti io questo stavo dicendo, quello che a noi normalmente viene chiesto, soprattutto nell'ultimo periodo, è: notaio, ma la comunicazione, la dichiarazione IMU, quella che una volta era la dichiarazione ICI, me la fa lei, la devo fare, quando la devo fare? Quindi ancora non c'è chiarezza su questa scadenza. Diciamo quindi, per dare un'impostazione generale, che la regola è che la dichiarazione IMU debba essere presentata ai comuni entro 90 giorni dall'evento che determina una modifica di calcolo. Tra questi eventi non c'è l'atto di trasferimento della proprietà o di un diritto reale sull'immobile, perché tutti gli atti di trasferimento vengono, quelli notarili, vengono ormai registrati con il cosiddetto modello unico informatico, e quindi l'amministrazione ha la possibilità di accedere alle notizie direttamente in via informatica, per cui c'è un'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione IMU per questi aspetti. Va presentata invece, per esempio, nel caso in cui si erediti un'abitazione, e il termine è 90 giorni, con una disposizione transitoria che ha prorogato al 30 di novembre e è ancora in fase di approvazione, ma dovrebbe essere ormai a 90 giorni dalla pubblicazione del modello, e quindi ai primi di febbraio, il termine per tutti i casi in cui 90 giorni sono già scaduti. Allora, il tema della dichiarazione IMU, che non ha nulla a che fare, adesso lo specifichiamo, con il versamento del saldo dell'IMU appunto previsto per il 17 dicembre, era il tema anche di una delle pillole che vi anticipavo in apertura di programma, cui ha risposto anche nei giorni scorsi Cristiano Dell'Oste sul Sole 24. Allora rispondiamo subito a questa domanda. Per l'abitazione principale deve essere presentata la dichiarazione IMU? Sentiamo. La risposta giusta è quasi mai. La dichiarazione, infatti, di solito non va presentata. Ma ci sono due eccezioni importanti. Primo, tutti i casi in cui marito e moglie hanno la residenza in case diverse, situate nello stesso comune. Secondo, tutti i casi in cui il comune, con il proprio regolamento, ha assimilato alla prima casa l'abitazione degli anziani o disabili ricoverati in modo permanente o la casa dei residenti all'estero iscritti all'AIRE. Cristiano, volevo ritornare da te, perché forse questo argomento non l'avevo toccato con te in una puntata recente, forse l'ho fatto con Giovanni Parente. Perché si è creato questo equivoco tra il versamento del acconto e del saldo IMU e la questione della presentazione della dichiarazione IMU, che sono appunto due circostanze, due situazioni, due questioni differenti, separate? Si è creato questo equivoco perché purtroppo con la dichiarazione IMU siamo arrivati molto in ritardo, nel senso che, come ricordava il notaio, ci sono state diverse proroghe, il termine è stato via via rinviato e alla fine si è arrivati quasi in contemporanea con i due adempimenti, quando in realtà sono due cose ben diverse, nel senso che l'IMU la devono pagare sostanzialmente tutti i proprietari di immobili, la dichiarazione la deve fare una piccola parte dei proprietari, però il messaggio che possiamo dare, che è tutto sommato rassicurante, è che in questa fase è importante preoccuparsi soprattutto del saldo, del pagamento, visto che anche se la legge non è ancora stata convertita, è ormai praticamente certa la proroga fino al 4 di febbraio, quindi della dichiarazione avremo un attimino di tempo in più per preoccuparci. Esatto, per fare altre trasmissioni. Cristiano, chi subirà come dire, una situazione particolarmente pesante, a chi toccherà un saldo particolarmente impegnativo il 17 dicembre? Sicuramente ai proprietari di quegli immobili che vengono indicati solitamente come seconde case, che poi non sono necessariamente case al mare o case di vacanza, può essere anche la casa dei genitori magari in un paesino di montagna che è stata ereditata e in cui più nessuno ha la residenza, ecco, quella tecnicamente è una seconda casa per il fisco. Tantissime per esempio si trovano lungo la dorsale appenninica del nostro paese, c'è stata una statistica recente che hanno elaborato il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia del Territorio dove si vede proprio questo, cioè sono le case non utilizzate. In sostanza su quegli immobili viene ad applicarsi l'aliquota ordinaria che quasi tutti i comuni hanno alzato parecchio rispetto al livello dello 0,76% e che a livello di media sfiora ormai l'1%, quindi su questi immobili, che sono poi anche quelli che non danno reddito perché non sono affittati, l'impatto dell'IMU sarà decisamente più pesante. E speriamo che tutti i contribuenti si siano preparati e che abbiano fatto i calcoli in anticipo, non si riducano all'ultimo momento, perché sennò la sorpresa rischia davvero di essere un po' davvero inaspettata, proprio in termini di cifre da versare. Allora, forse è già giunto il momento di andare a fare la prima pausa, ma magari Matteo riusciamo a sentire subito la prima domanda del primo ascoltatore, a cui risponderemo dopo il nostro break, ed è Cesare da Milano ad inaugurare le chiamate di questa mattina. Cesare, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie dell'opportunità. Grazie a lei, ci dica. Mi riferisco all'IMU seconda casa. Sì. Credo che sia dappertutto, in ogni comune, a Milano in particolare, le seconde case non affittate, non locate, pagano l'1,06% e quelle locate invece lo 0,96%. Nel caso in cui la locazione sia avvenuta nel corso dell'anno, credo si debba operare pro quota. Quindi l'aliquota per chi non affitta è più alta di coloro che affittano? Esattamente. A Milano è 1,06 invece di 0,96. Benissimo. Allora, se viene stata affittata la casa nel corso dell'anno, ritengo che debba essere fatta pro quota. Colgo però l'occasione, se mi è consentito, per ritenere che questa, per comunicare che questa secondo me è un'incongruenza. Infatti, a mio modo di vedere, un proprietario dovrebbe fare quello che gli pare dell'appartamento e soprattutto non si tiene conto della situazione economica particolare. Cosa significa? Che un proprietario di casa può aver lasciato, può non affittare o non locare l'appartamento perché non trova... si deve sposare un figlio, per esempio. Sì. Quindi nel giro di 1 o 2 anni, se si sposa un figlio o comunque lascia la casa, la casa paterna, deve essere certo di poter entrare nel suo appartamento. Secondo, il proprietario dell'immobile può non aver trovato nessuno interessato alla locazione. Oppure nessuno che ritenga, affidabile, perché poi c'è anche tutto un altro aspetto del problema, no Cesare? Non è che la si può affittare al primo che si incontra. Appunto, e poi ci può essere il proprietario che trova un potenziale locatario, ma lo ritiene non solvibile, quindi non gli affitta l'appartamento. E allora, quindi lei dice, per quale motivo io devo essere addirittura penalizzato per tutte queste scelte che attengono chiaramente alla sfera totalmente personale? Ecco, lo sapevo, ecco. Devo, lo farei, ma adesso dimmi tu, Monti, quanto fa questa cavolo di IMU? Ok, io lo so già, quale botta sai? Qui mi arriverà, se ci infilo dentro la mansarda e il doppio box, conto i metri sai, moltiplico per 6, ottengo il coefficiente, divido poi per 3 meno l'età della portiera. fai a calcolare l'IMU? Da due mesi quasi. Vedo dei gran sorrisi in regia, Rudy, Matteo, Marco, che come al solito ha scelto la colonna sonora con cui accompagnare questa puntata. I dubbi di Maurizio Crozza sono i dubbi di tutti noi. Quanto dovremo versare per il saldo IMU? Abbiamo una certezza, la data dobbiamo adempiere entro il 17 dicembre e naturalmente siamo un po' tutti alle prese con simulatori, con calcolatori, appunto per cercare di capire, se non abbiamo il commercialista, quanto versare, visto che la cifra sarà sostanzialmente diversa e in molti casi molto più alta rispetto all'acconto versato a metà giugno. Allora, con noi stamattina Cristiano Dell'Oste, il notaio Enrico Maria Sironi. Notaio Sironi, affrontiamo il caso dell'ascoltatore che ci ha chiamato ad inizio trasmissione? Lo riepilogo, sì, lo riepilogo per un attimo per, a beneficio di chi non ha ascoltato. Cesare da Milano contesta il fatto intanto che, avendo una seconda abitazione, ci sia un'aliquota IMU differente se la si affitta o se non la si affitta. Se non la si affitta, l'aliquota sulla seconda casa è più alta. Lui dice che intanto c'è questa incongruenza, non è giusto, anche perché ci sono tante motivazioni anche di natura strettamente personale che possono portare a questa decisione. Lei come la vede intanto come professionista? È pertinente il giudizio di Cesare? Vorrei fare tre considerazioni, sì, sulla questione che ha proposto Cesare. La prima, fare leggi non è semplice. Tu fai una legge avendo in mente un determinato obiettivo, la casistica è variabilissima e quindi inevitabilmente puoi incorrere in qualche, chiamiamola, ingiustizia. Certamente il modo di legiferare che abbiamo oggi in Italia, con decretazione d'urgenza, eccetera, per certi versi obbligato, per altri versi può aumentare il rischio di commettere, chiamiamoli, degli errori. Poi dobbiamo porci, seconda considerazione, la domanda di qual è la ragione per la quale è stata prevista questa normativa rispetto alle abitazioni locate e non locate. Tra l'altro tutti i comuni hanno adottato questo principio sulla seconda casa non affittata, aliquota più alta rispetto a quella affittata? No. Non tutti i comuni, per quanto sappia io. Dicevo, la ragione per cui la legge è fatta in questo modo probabilmente è quella di incentivare le locazioni e quindi di evitare che rimangano case sfitte. E infatti questo era anche intuibile, però. E quindi questo è sicuramente un obiettivo condivisibile. Dopodiché il legislatore ha demandato ai comuni la scelta concreta, anche probabilmente il comune conoscendo la situazione locale e quindi sapendo che c'è carenza di case da affittare, può incentivare ulteriormente differenziando le aliquote. Viceversa, in una situazione in cui non c'è domanda di affitto, probabilmente il comune potrà fare un'operazione che va a ridurre o addirittura ad azzerare questa differenza. Sì. La terza considerazione che vorrei fare è di tenere conto che comunque la normativa IMU prevede che l'IMU sostituisce l'IRPEF sulla seconda casa non locata. E quindi il fatto che per l'abitazione locata ci sia un'aliquota IMU più bassa, per certi versi è compensato dal fatto che paga poi l'IRPEF il titolare di un'abitazione locata, mentre il titolare di una seconda abitazione sfitta è esonerato dal pagamento dell'IRPEF. Cristiano, e quindi in qualche modo le cose si possono compensare. Cristiano, l'ascoltatore sollevava anche un altro aspetto. Lui dice: se comunque nel frattempo io ho affittato nel corso di questo anno l'abitazione, pagherò pro quota l'aliquota? Sì, quindi ripartita così, sull'anno, mi sembra il minimo sindacale. E vale per tutti i casi in cui un qualche requisito che determina l'aliquota dell'imposta non viene posseduto, non è presente per tutto l'anno. Pensiamo, che so, al soggetto che compra una casa e poi prende la residenza 3 mesi dopo averla comprata. Perfetto, allora per i primi 3 mesi pagherà come seconda casa, poi dal momento in cui riprende la residenza paga come abitazione principale. Oppure pensiamo al caso dei figli che magari compiono i 26 anni, nell'arco dell'anno. Allora, finché hanno meno di 26 anni hanno diritto alla detrazione di 50 sì. euro, che quindi va parametrata al numero di mesi, e così via. Questo vale proprio per tutte le situazioni in cui un requisito non c'è per tutti i 12 mesi. Allora, prima di sentire Mirella da Grosseto e Giovanni della provincia di Asti, devo leggervi una mail che invece c'è arrivata da Sara e Pietro, che abitano qui vicino, e oltre ad averci scritto più volte non riuscivamo a rispondere a questa coppia, hanno anche risollecitato attenzione appunto questa mattina chiamandoci. Vi leggo la mail. Abbiamo una casa di proprietà sulla quale paghiamo una rata mensile di mutuo nel comune di Buccinasco. Ora questa casa l'affittiamo perché per problemi di salute di nostra figlia ci siamo dovuti trasferire a Milano, dove viviamo in affitto a nostra volta. Con i soldi dell'affitto della casa di Buccinasco riusciamo, anche se non completamente, a coprire l'affitto della casa di Milano, dove evidentemente i canoni sono più alti. Sulla casa di proprietà paghiamo tuttavia l'aliquota di IMU più alta perché è ritenuta una seconda casa, anche se non lo è affatto. Cristiano, abbiamo sollevato tantissime volte questo problema e in qualche maniera qualche correttivo è arrivato, perché se non ricordo male qualche comune può decidere se assimilare alla prima abitazione, no? La cosiddetta teorica seconda casa. Chissà nel secondo... In realtà no. C'è la possibilità per i comuni di assimilare alla abitazione principale soltanto due tipologie di immobili, che sono le case degli anziani o dei disabili ricoverati in modo permanente in un istituto di cura, a patto che abbiano anche la residenza nell'istituto di cura, quindi insomma deve essere un ricovero appunto che dura da un po' di tempo, e in seconda battuta la possibilità di assimilare alla prima casa, quindi all'abitazione principale, case possedute da soggetti che risiedono all'estero e che sono iscritti all'AIRE, che è l'anagrafe italiana dei residenti all'estero. Al di là di queste ipotesi, i comuni possono ovviamente deliberare degli sconti di imposta. Non possono scendere fino al livello dell'abitazione principale, quindi per esempio non scatta la detrazione dei 200 euro, l'aliquota non può scendere fino allo 0,4 e così via. E ascoltatori di cui ho letto la mail ci scrivono: riteniamo che ciò sia ingiusto e questo può anche essere condivisibile. Vi chiediamo se potete aiutarci, credo che sia un po' più complicato, notaio Sironi, questo aiuto. Questo diciamo devono, che l'unico aiuto che si può dare è di valutare se è sostenibile, se è opportuno quello di cedere la proprietà dell'abitazione di Buccinasco per acquistare a Milano, però evidentemente i problemi possono essere di altro. Allora, sentiamo adesso qualche altro ascoltatore. Mirella da Grosseto. Mirella, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Ora, mi scuso, forse farò una domanda a cui avrete già risposto diverse volte, però non ho avuto... Guardi, tanto ripetere non ci fa mai male, perché evidentemente sono concetti che forse non sono passati del tutto. Se lei ce lo richiede, Mirella, no, volentieri. No, ma non ho avuto forse occasione neanche non di seguire le trasmissioni precedenti, in cui avete magari discusso di questa, ci dica. Di questa particolarità. Senta, io vivo in una casa di proprietà acquistata nel 2010, ovvio ho preso la residenza nel 2011, e sono sposata. Mio marito è rimasto nella casa dove vivevamo precedentemente, però è di sua proprietà. Per ragioni nostre personali, certo, abbiamo deciso di vivere in due abitazioni diverse, ma non separandoci, perché sono tantissimi anni che siamo sposati, quindi... Ora, quando ho fatto la dichiarazione, il pagamento dell'IMU della prima rata, il commercialista mi ha detto che avrei dovuto pagare come seconda casa. Lei è quella dove abita lei adesso? Abitiamo nello stesso comune, però sì, ognuno è proprietario di un appartamento e la residenza, io ho la residenza nella casa dal 2011. Ci abito perché possono verificare dal consumo acqua, luce, gas, quindi non è una casa di opportunità. Certo, no, ma è solamente stabilire insomma come deve comportarsi per essere in regola rispetto a questo tributo. Allora, notaio Sironi, vengo da lei per affrontare il caso di Mirella da Grosseto. Nello stesso comune, due case di proprietà, una sua, una del marito, vivono per libera scelta appunto separati in queste due abitazioni. Mirella ha preso la residenza in questa seconda casa acquistata nel 2010, l'ha presa appunto nel secondo anno. Intanto questo è un caso tipico in cui occorre fare quella famosa dichiarazione IMU della quale parlavamo all'inizio, giusto? Dunque, no, direi che non deve fare la dichiarazione IMU, perché il cambio di residenza anagrafica tu comunque lo devi effettuare presso il comune, quindi il comune ha già tutte le notizie necessarie per sapere se quella è una prima o una seconda casa, questo per quanto attiene il cambio di residenza. Viceversa, deve essere oggetto di dichiarazione IMU, nel nostro caso specifico di Mirella, la scelta di quale delle due abitazioni considerare come abitazione principale ai fini IMU, perché purtroppo il caso di Mirella è risolto proprio testualmente dalla legge. La legge dice che qualora i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano dimora e residenza diversa nello stesso comune, potrà essere considerata abitazione principale una sola di quelle due abitazioni. E quindi purtroppo non c'è soluzione. La soluzione casomai potrebbe essere, ma ovviamente Mirella ha detto che ha ragioni sue col marito per aver scelto di vivere separatamente senza una separazione personale, se fossero separati legalmente ovviamente la situazione muterebbe e sarebbero tutte e due abitazioni principali, ma è evidente che la scelta della separazione personale non potrà dipendere dal pagamento dell'IMU. Insomma. Certo, allora intanto sulla seconda casa, per chi fa la compilazione appunto dell'F24 per il versamento, deve indicare anche qual è la quota che è destinata allo Stato e la quota che è destinata appunto al comune. Come si fa a dividere il saldo dell'IMU tra quota statale e quota comunale? Sentiamo. È un problema che si pone per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e fattispecie affini e dai fabbricati rurali strumentali. In pratica, mentre per l'acconto bastava dividere in due l'importo, per il saldo bisogna fare in modo che lo Stato abbia una quota fissa, calcolata con l'aliquota dello 0,38% su base annua, cioè lo 0,19% per il saldo. Al comune va tutto il resto. Quindi, se l'aliquota decisa dal comune è superiore a 0,76%, al comune va un po' più di metà. Se invece è inferiore, al comune va meno della metà del saldo. Cristiano Dell'Oste, come mai il fisco ci ha complicato anche la vita da questo punto di vista? Perché dobbiamo essere noi ad indicare quanto va allo Stato e quanto al comune? Non si poteva fare un unico versamento al comune e poi il comune trattenere la quota di sua competenza e girare il resto all'amministrazione centrale? Questa è una bella domanda, Deborah, perché molti contribuenti se lo chiedono e in effetti sarebbe tanto più semplice se si potesse calcolare l'imposta dovuta con l'aliquota comunale, pagare e poi Stato e Comune se la vedono tra loro. In realtà questa complicazione che ha in effetti dell'assurdo deriva da come è nata l'IMU, che era un'imposta municipale prevista nell'ambito del federalismo fiscale, poi è stata in qualche modo ripescata e anticipata nella sua entrata in vigore dalla manovra Salva Italia dello scorso dicembre e poi in qualche modo da lì è nata come un'imposta doppia, perché ha una parte di entrate che vanno allo Stato e che deve essere sempre fissa qualunque decisione prende il comune e poi una parte comunale. E quindi si è arrivati a questo assurdo del cittadino che non solo deve calcolare quanto deve pagare, ma deve anche dividere la quota tra ciò che spetta allo Stato e ciò che spetta al comune. Cristiano, c'è un ascoltatore che mi segnala, aspetta che lo ritrovo perché già me lo son perso, dice che il calcolatore del sole su internet mi dà pagamento che devo fare per giugno, per il 18 giugno, dove sbaglio e dove posso trovare quello del 17 dicembre? Magari adesso lo riapriamo, non so se... Ridiamo l'indirizzo, ecco, ridiamo l'indirizzo corretto. Saldo l'indirizzo IMU, esatto, non IMUS, non solo 24 ore IMU. No, ecco. esatto, il sole24ore.com/, cioè barra, saldo IMU, calcolo IMU, diciamolo bene, calcolo IMU, tutta una parola attaccata. C'è anche quello di giugno perché è rimasto online per chi dovesse eventualmente fare una verifica per essere sicuro di aver pagato l'importo giusto, anche perché per calcolare il saldo che cosa si fa? Si calcola l'imposta dovuta su tutto l'anno con l'aliquota del comune, adesso diciamola semplice, e poi si va a sottrarre quanto si è già pagato in acconto, perché bisogna andare a conguaglio. È chiaro che se io ho sbagliato a calcolare l'acconto sbaglio anche il saldo. Benissimo, allora intanto vediamo se negli ultimi 3 o 4 minuti di tempo che abbiamo a disposizione riusciamo ad accontentare ancora un paio di ascoltatori. Voi continuate a scriverci perché su questo tema cercheremo tutte le risposte dei nostri professionisti. Abbiamo Giovanni dalla provincia di Asti. Giovanni. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io parlo di un caso di di una situazione anomala ma abbastanza frequente tra genitori e figli, no? Sì. Praticamente io e mia moglie abbiamo un alloggio che abita mia mamma, lei ha un alloggio più grande che abitiamo noi. E praticamente dobbiamo pagare due seconde case, non ci viene più riconosciuta. Perché ve le siete scambiati, Giovanni? Sì. Incredibile. Aspetti un po' lì. Uso gratuito. Infatti. Notaio Sironi. La soluzione in questo caso a normativa attuale è solo quella di scambiarsi la proprietà con un atto di permuta. Quindi rimanendo nelle possono rivolgersi al notaio, fare un preventivo per vedere quali sono i costi di questo scambio. Consideriamo che nell'atto di permuta le imposte si pagano su un trasferimento solo anziché su due, e quindi c'è un certo risparmio. Mettere a confronto questa spesa con il differenziale tra l'IMU prima casa e l'IMU seconda casa, vedere e vedere in quanti anni recupero la spesa dell'atto. Secondo lei a occhio che cosa, adesso a parte magari bisognerebbe vedere anche le caratteristiche della casa. Casi in cui in due anni si ripagava l'atto. E quindi forse potrebbe essere conveniente. Quindi sicuramente vale la pena. Capisco se invece gli anni sono 7-8 e magari i genitori sono anziani, augurando lunga vita a tutti, però insomma questo ammortamento non è possibile. Può farseli. Cristiano, questo caso ti era mai capitato di affrontarlo? Sì, sì, è un caso che si è posto diverse volte. Tra l'altro ci sono alcuni comuni che hanno previsto per queste situazioni non l'assimilazione all'abitazione principale, che abbiamo visto non si potrebbe fare, ma hanno previsto un trattamento con un'aliquota molto ridotta. E ad esempio il caso di Verona mi viene in mente tra i grandi comuni che ha previsto questa, questa agevolazione, perché è uno dei tanti paradossi della disciplina IMU. Allora, come dicevo, non sono in grado di mandare in onda tutte le pilloline che abbiamo registrato, ne voglio però leggere una e affrontare anche questo tema negli ultimi 40 secondi di tempo che ci rimangono. Cosa succede se con il saldo IMU vado a credito, cioè risulta che ho pagato già in acconto quanto di più di quanto avrei dovuto pagare per tutto l'anno? Anche in questo caso, Cristiano, casi molto diffusi? In qualche caso può essere successo, diciamo che qui dipende dal soggetto nei confronti del quale va a credito, perché se va a credito nei confronti del comune dovrà verificare all'interno del regolamento IMU o a volte nell'ambito del regolamento entrate adottato dal proprio comune qual è la procedura prevista per i rimborsi, qual è l'importo minimo che viene rimborsato, perché ad esempio di base a normativa nazionale al di sotto dei 12 euro io non devo pagare e se vado a credito il comune non mi rimborsa, quindi bisogna verificare questo. Se invece il credito fosse nei confronti dello Stato, quindi per esempio si è andati a credito su una seconda casa, quindi ho una fettina di imposta verso lo Stato e una fettina di imposta verso il comune, allora su quella parte statale al momento non è prevista la procedura di rimborso, dovrà essere definita naturalmente e il credito non andrà perso, però su come richiederlo ad oggi ancora non abbiamo dei punti. Allora, Cristiano e notaio Sironi, come siete messi la prossima settimana? Ci possiamo ritrovare qui esattamente tra una settimana in questa stessa giornata, oggi è martedì, che dite, ce la facciamo a riproporre questo binomio per i nostri ascoltatori? In Cristiano, aggiudicato. Ci sei? Sei in solidarietà, notaio Sironi, la posso aggiudicato già precettare? Anche da parte mia. Perfetto, martedì prossimo ci ritroviamo qui con Cristiano e notaio Sironi per rifare ancora un po' l'ABC sul saldo IMU. Buona giornata, a domani.